Pronto? Antò? Chi è? Chi parla? David Parenzo. Oh, ciao, ciao David, come stai? Rimortaccia, bene, bene, sono qui con Giuseppe, volevamo farti un'intervistina al volo. Quando? Quando adesso, vuoi. Adesso, quando adesso. Vuoi? Adesso non si può perché sto aspettando che arrivano quelli del TG2. No, ma due secondi. Facciamo due minuti adesso, ma quando arriva chiudi, chi se ne frega. Poi guarda, prova a richiamare fra 10 minuti eventualmente. Antò, quando c'è l'intervista? Perché sta cosa visto di Tagliani. Ma come sto vestito? Prova a richiamare fra 10 minuti. Ma che stai nudo in casa, scusa, non ho capito. Allora fatteli i cazzi tu, no, vaffanculo. Ti pare che uno stia... La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Qui Pietro Longo, messaggio a tutti i putanieri dell'urbe terraqueo. Resistere, resistere, resistere. Cosa? Resistere e torneremo più forti di prima, torneremo. Adesso state a casa, non rischiate, 3.000 euro di multa sono buttati via, pensate a cosa potrete fare con 3.000 euro quando tutto questo finirà, l'infinito. È un ascensore di Brescia leghista, un pezzo di merda, Lo scudetto va alla Juve! Alla Juve va lo scudetto, è inutile cercare stronzate! Lo scudetto va alla Juve! E sti cazzi! Eh sì, una puntata a denigrare l'Inps, elogiare Pornhub e intanto non siete capaci di mettere un podcast. 24 ore ad aspettare per una puntata e dopo altre 12 perché il vostro sito maledetto non funziona. Mamma mia, mamma mia. Uno, Barisone ha rotto il cazzo con questa economia che dura sempre più del previsto. Due, nel vostro sito funzionano solo le pubblicità e poi non parte niente. Tre, l'app non la sto neanche più usando ma non funziona neanche l'app. Quattro, vaffanculo a tutti. Ti capisco amore, persona come te capisco benissimo. Ragazzi, Longoni mi ha detto che quando c'è lui riesco a chiamare. Faida jundillah yadukkuhum dakkan yadukkuhum dakkan shoot them dead. Limbas Barisoni gay. Da questa intro avete capito che siamo ancora vivi qui, dal bunker di Via Monterosa, in collegamento da Roma, dall'altro bunker, quello dello Stato di Israele, costruito direttamente dal Mossad, David Parenzo. Buonasera, tutto vero, tranne che questo è stato costruito da un ingegnere, credo, verso l'inizio del Novecento, ma non credo ingegner fosse Carlo del Negri. Mossad. Però, ingegner Carlo no, Negri. Ecco, non ci abiterei, qualora fosse stata costruita da quel signore lì, non perché non abbia fiducia in lui, per carità, ma tutti meritano di vivere, ma non viverei lì, comunque, evviva. Il collegamento da Padova, dagli studi della signora Radio Caffè, Alberto Gottardo. Eccolo. Mi sembra che il picco dell'odio stia scemando, però. Forse l'abbiamo raggiunto la settimana scorsa, il picco dell'odio. Potrebbero esserci delle recrudescenze, ma speriamo che il picco sia passato. Ricevo certi messaggini ancora. Ricevo certi messaggini di gente che ha avuto anche parenti deceduti. parenti deceduti. Vabbè, massima solidarietà per quelli che hanno avuto dei lutti, ci mancherebbe altro. Allora ragazzi, io inizierei subito con qualcosa che vi farà ridere, vi farà scompisciare dalle risate. È un audio, credo, prima di oggi. Prima diciamo una cosa importante. Mamma mia, ci sono 55 bambini. Vediamo la cazzata, la banalità di oggi. Ci sono 55 bambini, 55 bambini sequestrati nelle mani dello Stato. Che cosa sono? Sono 55 bambini di cui parla oggi e non dire giù il microfono. No, dimmi. Di cui parla oggi su Repubblica Luigi Manconi. Oddio, 500 bambini, 55 bambini, 55 bambini. Lui ascolta sempre la trovata. Sono in carcere con le loro madri. Che sono in carcere con le loro madri. Ma che coglioni, ma sono più sicuri in carcere. Farli sono più sicuri in carcere, è molto serio l'argomento. 55 bambini da liberare. Ma che 55 bambini da liberare con le loro madri, perché non devono stare in carcere con il coronavirus. Probabilmente stanno insieme quei bambini, non sono infetti, facessero i test e stanno meglio piuttosto che rinchiusi in casa. Non hai letto la denuncia. Non mi stupisce. Hai detto la solita cosa. Allora, il presidente della Camera, signor Fico, e che sostiene che la cittadinanza al sud è molto ligia. L'ho sentito oggi dalla signora Bortone ad Agorà, l'ho sentito. La cittadinanza del sud è molto ligia. Ma è un po' così, insomma, sì, è una cosa un po'. Pagheranata al Cairo, a Islamabad potrebbe anche essere. Ragazzi, adesso va bene tutto, va bene che anche oggi, va bene che oggi, per carità, ci sono delle immagini che vengono anche da Genova, che sono, appunto, diciamo, vergognose, appunto, denunciate appunto dal presidente della Liguria, di una via a Genova piena di no? No, sai, ma che c'era un cinghiale, sì, a Genova che girava in zona. No, non è quello, è un'immagine di una via centrale di Genova piena di gente con la mascherina, più di quelli che dovrebbero circolare normalmente. Ma sentiamo il presidente della Camera, che è una cosa un po' comica, diciamo la verità. In generale dico che il Sud sta facendo un buon lavoro, la cittadinanza ha risposto bene, molto ligia, alle regole che il governo ha dato, quindi la cittadinanza è molto ligia. Io in contrapposizione metterei Jenny C, un signore che Jenny Carogna. No, che sì, si chiama Jenny la Carogna, non so come si chiama, un signore pregiudicato, credo già individuato, denunciato dall'ottimo Borrelli in Campania, consigliere regionale, il quale dice di fare la rivolta a Forcella. Così. Ma sì, non mi ci fai uomo di merda, ma mi ci metti la coppia in baccuno, ma ci niente a bacio, ci ditta l'andella, la mia magazzina, ci mi rapina tutto uomo, mi ci sono da quello storico, ma ci sti su mastica, sono altre sanni del tavriccione, c'è niente, là, c'è niente tutto, c'è niente, non me lo do, ma ci me la rivolto, ma ci non ci mi fucciello, vado e facciamo rivolto, mi funziona e facciamo rivolto, ci dà rivolto, fucciamo da fare rivolto. Altra scena che viene dal sud, amico mio, altra scena che viene dal sud. E questa volta è clamorosa, devo dire la verità, clamoroso. Poteva succedere anche al nord, da questo punto di vista. Però a Galatina, Lecce, c'è un medico che esce dal suo studio e prende a manate in faccia un paziente. Un medico di base. La follia, l'esasperazione. Tanto per tornare prima a quello che dice il presidente della Camera, Fico. La gente al sud è molto ligia. Intanto c'è questo medico di base che prende uno che stava lì con la stampella a manate in faccia e poi quasi lo calpesta. Lui si chiama Refolo, Vincenzo Refolo. Picchiato anziano a Calimera, e c'è il video del signore anziano che lei, come dire, strattona prima, poi lo butta a terra, e mentre a terra tira. No. Chi lo dice che butta a terra? Chi lo dice? E guardi le immagini, ma si accende la televisione. Calimera. Vai. Mi vuol dare una motivazione sul fatto che una volta caduto a terra lei continua con la gamba destra a dare un colpo sul corpo del paziente? Guardi, non è sul corpo, io sto vedendo sulla gamba, perché lui mi dava con la stampella. Ma dove gliel'ha dato? Ma guardi, ma non c'è una giusta. Ma si vede anche fuori, gli ha dato con la stampella un calcio, io tengo il camice pieno di scarpate, mi spiego? Dice, non gliel'ho dato sul corpo il calcio, gliel'ho dato sulla gamba. È un tizio... ovviamente non fa parte del corpo. No, per carità, è un'altra cosa. È un tizio, di, il direttore di Telerama che lo intervistava, vai. Senta, io non devo dare queste spiegazioni a lei che ah, no. di parte. Già il fatto di dire se lei è un pacifista, io sono una donna, lei non è neanche degno di guardarmi in faccia. No, no, no, no, mi scusi, io sono una donna, cioè se lei è pacifista, lei dottor Refolo, io sono donna, perché queste non sono immagini da pacifista. Ha messo giù. Cosa che succede spesso fortuna. A noi. Cosa che succede spesso. Si chiama Refolo. Si chiama Refolo, in pesta, cosa faceva? L'ammazzava. Refolo, una manata in faccia. Si è mobilitato il direttore direttamente per intervistare il direttore della rete. Una cosa si è mobilitato il direttore, si è mobilitato. Una cosa incredibile. Vabbè, però bisogna vedere, sì, è deprecabile, ma bisogna vedere cosa è successo prima, però noi ma non sappiamo. Ragazzi, non ma un sappiamo. Medico di base che col calice no, prende a manata cioè, in faccia e calpesta. Folle, che doveva essere successo prima, anche se no, sicuramente folle, però a volte ti può partire l'embolo a chiunque. Il governatore del mondo. Ragazzi, il governatore del mondo, sentite, sentite, sentite. Perché se tu dici si può andare a passeggio con un bambino sotto casa, ti devi porre alcune domande. Primo, chi controlla che il genitore vada a passeggiare sotto casa e non se ne vada in giro per la città? Secondo, chi controlla il fatto che possono esserci in un quartiere 500 genitori che decidono di fare la stessa cosa? Determinando quindi un assembramento di massa. Chi controlla che la distanza fra genitore e genitore, bambino e bambino, sia di un metro? È cambiata la gerarchia dei valori. Conta di meno la corsa ossessiva ai soldi, al successo, le tensioni di vita continue. Cominciamo ad apprezzare di più le cose semplici. Antiche, quelle che hanno magari reso più poveri, ma forse più felici i nostri padri e le nostre madri. È un po' troppo filosofico il governatore del mondo oggi, è troppo filosofico, lo vogliamo in battaglia noi, in battaglia, altro che in battaglia, Taormina ormai è deciso. La colpa è del governo, responsabilità del governo. Perché se, come sembrerebbe, medici e virologi avevano dato fin dall'inizio subito la indicazione di intervenire drasticamente, così come si è fatto poi secondo quello che viviamo in queste ore, e il governo per altre ragioni imperscrutabili abbia prima minimizzato e poi scavalcato i pareri dei medici e dei virologi, e allora è chiaro che la responsabilità è solo e soltanto del governo. Comunque ha detto di aver depositato la denuncia, ragazzi. Ufficialmente ha depositato la denunzia contro il governo. Ma dove l'ha detto? Ma dove che l'ha detto? Ma non lo so. Ma l'ha dichiarato. Dove l'ha detto questa roba? Su Facebook, credo. Certo che Gottardo che dice che è quasi impossibile che muoia di coronavirus con tutto quel grasso che si ritrova, fa proprio ridere. La zanzara. Oh no, she's not a secret now, but nobody cares. Zanzarosi, giornata difficile, chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Cruciani, uomo senza palle. Tanto stasera questo vocale non lo fai sentire perché è pura anche della tua ombra, figuriamoci. Allora, mi è appena fermata la protezione civile che ero in bicicletta, mi ha chiesto dove stessi andando. Mi ha detto guarda, sto andando a far finta di andare a far spesa, con la mia solita arroganza ovviamente. Oh, ma cosa fai, il furbo? No, è la verità. E voi cosa fate in giro? Sapete solo andare in giro con questi cazzo di fuoristrada che sembra che dovete andare nel deserto del Sahara a dire con la gente di stare in casa. Fate delle cose più utili, li riempite di roba da mangiare, eh? E poi dopo invece di passare col megafono a dire tutti in casa, iniziate a lasciare davanti le case roba da mangiare, così vi rendete un po' più utili, coglioni. Allora, Questo qua è quel deficiente coglione lui di Steve. Sai, il famoso Steve che chiamo ogni tanto. Steve. Ma no, ma quello non c'entra niente. No, non comunque, ragazzi, oggi sono incazzato. Sono incazzato con un signore che si chiama Borrelli. Borrelli, il capo della protezione civile. Sono incazzato come una biscia. E innanzitutto perché pochi minuti fa mi risulta che abbia detto che le mascherine non sono necessarie, basta il distanziamento sociale. Cioè, praticamente smentisce l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Cioè, in questa fase uno dice le mascherine non sono necessarie per chi riesce a mantenere le distanze. Così ha detto, mi risulta qui dall'internet che abbia detto qualche minuto fa. Signor Borrelli, che vi invito tutti a ricordare. Perché le mascherine non ci sono, sono poche. Ho capito, allora però non è che puoi dire anche uno dei temi. Ho capito, cioè, non è che puoi dire una cosa del genere. No, ma non lo sto difendendo. Secondo, è andato in alcune trasmissioni a dire che probabilmente staremo dentro fino al 2 maggio, poi al 4 maggio. È il vuoto della politica. Poi ha detto, la fase 2 inizierà il 16 maggio. Una roba vergognosa. Ma non deve essere il capo della protezione civile già commercialista o commercialista. E chi metti Speranza? Dai, ragazzi. Su, l'hai ma mai come sentito parlare? No, ma l'hai mai sentito quello, parlare? Ma giustamente, ma meno male, parla poco. Ma il problema non è quello. Borrelli riempie un vuoto di altri. Sì, quello può darsi, hai ragione. Un vuoto di ma altri. Non puoi ci sono andare ministri alla Toninelli e allora, che adesso non c'è più, ma almeno Toninelli qualcosa rappresentava. E siccome c'è metà dei ministri non lo sapresti neanche tu il nome dei ministri, allora prendono il largo poi i funzionari, capisci? Però posso dirti la cosa incredibile, è che una cosa del genere non deve essere detta da un funzionario. Cioè, sulla ipotesi di riapertura non deve essere il capo della protezione civile. Il capo della protezione civile, a parte che è semplicemente uno che deve organizzare il territorio, punto. Al limite è un virologo che dà un consiglio al politico, il capo della task force, come cazzo si chiama? Interrogazione a Cruciani, il ministro del lavoro. Come si chiama il ministro del lavoro? Non mi ricordo adesso, lo sa Parenzo. Vedi, dai, vedi, fammi sentire Borrelli. È gente che non è rappresentativa. Fammi sentire Borrelli. È un orizzonte temporale sensato quello di metà maggio più o meno? Allora, io se le cose non cambiano, ovviamente, se l'andamento non cambiano, potrebbe essere come potrebbe essere prima o potrebbe essere dopo, dipende dai dati. I dati che noi abbiamo oggi, siamo in una situazione stazionaria, dobbiamo vedere quando questa situazione inizia a decrescere e come ritornare. Il 16 maggio è una distanza, è un periodo di tempo lungo, e quindi da qui al 16 maggio potremmo avere dei risultati ancora ulteriormente positivi che consigliano di riprendere le attività nella fase 2. Insomma, una misura restrittiva è stare in casa per molte settimane. Esatto, purtroppo sì. Anche il 1 maggio? Io credo proprio di sì. Non credo che questa cosa passerà, questa situazione così impegnativa, il 1 maggio. Allora io dico una cosa, no? È chiaro che lui dice io penso, forse, eccetera. Esatto. Sì, ma ho capito, ma non dire un poi cazzo. Se le invitano qualcosa dice. Ma non no? dire se un cazzo, ho capito, comunque. Ma se il governo ha deciso di chiudere tutto il 13 aprile, fino al 13 no, aprile. No. E allora adesso, tu però, di volta in volta l'azione è quella, di volta in volta però, si verifica. Scusami, perché vede, non vuoi mai non però vuoi mai ammettere una no. Cioè un funzionario giusto, dello Stato, del capo della protezione civile, che risponde e dice sicuramente il 1 maggio non usciamo. Ma cazzo, ma il governo ha appena detto il 13 aprile, non è che ha come dire, rivelato il quarto segreto di fatti. Ma non puoi essere tu. Borrelli ha capito che governa lui. Borrelli ha capito che comanda lui. Che il Consiglio dei Ministri non esiste. Che il Parlamento è chiuso. È vero, il Parlamento non è chiuso, lui non qui comanda, i tecnici hanno messo i piedi. No, ecco. Fermi tutti. Porro sull'INPS, devo ancora sentire Porro sull'INPS. Sapete quanto spende l'INPS? 43 milioni! Altro che Pornhub che gli ha prestato i suoi server. 43 milioni di costi. Voi dite, 43 milioni sono tanti. No, non basta, perché Darold che cosa trova nel bilancio dell'INPS? Che, 51 milioni, ho detto male, 51 milioni le spese per i servizi di trasmissione dati. 51 milioni! 51 per le spese di trasmissione dati, 43 per l'acquisto di servizi specialistici a supporto del sito, 94 milioni per il sito, overall costa 500 milioni, ma solo per il sito 94 milioni. E quando il direttore generale De Micheli non chiede neanche scusa, e quando Conte non chiede neanche scusa, e quando Tridico non chiede neanche scusa, e quando tutti e tre dicono che è colpa degli hacker, dicono una bugia. E quando il direttore generale dice è colpa dei tagli, al direttore generale bisogna mettere qua in faccia, toc toc, il pezzo di questo nostro giornalista e il suo bilancio, in cui si vede che le spese per il sito sono aumentate del 50% rispetto al 2017. Federico da Genova, vai Federico, dimmi. Buonasera, buonasera a tutti. Dimmi. Senti, no, volevo raccontarvi, vabbè, innanzitutto sono un medico ligure, sì, da Genova, e sono positivo al Covid. Volevo raccontarvi, giusto per darvi un po' di spunti, diciamo, di riflessione, la mia storia. E lo dice così, sono ma dove positivo. Stai, in quarantena? Non ho capito, Federico. Stai in quarantena, certamente, certamente, certamente, certamente. Come hai fatto a sapere di essere positivo? Allora, vi racconto un attimo com'è andata. Dimmi, no, no, no, ma è normale, grazie a Dio. No, che mi dispiace, bene. Certo. Però, no, bene, certo, bene. Però raccontandovi la mia situazione di salute, sono giovane, ho meno di 40 anni, non, grazie a Dio sono in quella categoria che dovrebbe essere la meno colpita. Comunque, arrivando al dunque, allora, io sono un chirurgo. Sono un chirurgo, sì. Sono da poco entrato a lavorare in quel reparto, nel mio reparto attuale. Ho visto una situazione un po' particolare, tanti colleghi, quasi tutti, avevano una sintomatologia un po' frusta, spuria, come si dice, no? Chi mutua, chi sarebbe andato in mutua forse il giorno dopo, qualcosa, e ho tirato sulle antenne. È arrivato questo casino qui che ha fatto un casino mondiale. Scusami, però questi... Federico, andiamo al sodo. No, perché articolate. Ci sentiamo dopo. Emilio da Milano, ti richiamo dopo io. Dai, Emilio da Milano, dimmi, Emilio. Salve, buonasera. Dimmi. Salve. Allora, oggi ho sentito Borrelli che diceva fino al primo maggio. Io mo non posso andare a scopare fino al primo maggio, no, non posso andare più a Escort. No, non puoi andare a Escort. Lui. Hai sentito il coso, no? Hai sentito il grande Pietro Longo, il grande puttaniere Pietro Longo, nostro sommo pontefice. Il grande puttaniere Pietro Longo, che è uno dei più grandi conoscitori dei bordelli, dei più grandi frequentatori anche di bordelli in Italia, e non solo grande in Italia. Grande anche. Sì, un grande amante del cunnilingus, ha detto una cosa molto chiara: resistere, resistere, resistere. Dunque, tu e fino oggi scade pure Pornhub, scade pre... non lo so, Emilio, quello è un altro discorso. Tu sei un frequentatore di Escort? Sì. Va bene, d'accordo. Purtroppo fino al primo maggio, io ho visto il 13 aprile post Pasqua. No, amico mio, no, resistere, resistere, resistere. Non fatevi multare, conservate i soldi per tempi migliori. Potrete spendere, il mondo non è finito, anche se ci sono vari timori. Io, per esempio, non sono per niente ottimista. Per nulla ottimista sono. La vedo molto nera, molto molto negativa, come diceva una volta il mitologico molto mago. Negativo. Molto negativo, vedo, però bisogna avere speranza. Dicono che bisogna avere speranza. Io francamente non ce l'ho. Vedo tutto immensamente nero. Però do retta alla voce che mi viene da Pietro Longo e da te, da altri puttanieri che dicono cerchiamo di resistere per vedere. Al massimo ce la paga Borrelli. Quello non lo so, mi lascio perdere. Borrelli sono frattaglie, quelle robe lì. Tu che sei un puttaniere incallito come Pietro Longo, devono sapere che forse ci sarà un domani. Mettete da parte i soldi, non fatevi multare, non andare a troie adesso inutilmente. Emilio, lo so che hai voglia di uscire e di andare a puttane, giustamente, per carità. Lo so. E non ti posso dare torto, però devi resistere. Devi resistere. Che succede? Che succede? Che succede? Che è successo, Davide? Che è successo? Paolo da Pavia, vai Paolo, dimmi. Paolo. Ciao, volevo rispondere a Gottardo che in apertura di puntata ha parlato del picco dell'odio. Il picco dell'odio l'ho sentito l'altra sera, mercoledì sera, con la signorina Martani, quando è assolutamente indifferente e anticompiacente che a Bergamo fossero morti dei cacciatori. Lo so, amico mio, il picco dell'odio, sì, era un odio profondo nei confronti dei cacciatori. L'abbiamo registrato, poi fate il cazzo che volete. Fermi tutti! Il giorno in cui siamo diventati grandi per uno schiaffo o una carezza. La volta in cui abbiamo conosciuto la morte. Tutte le nostre prime volte, ma anche tutte le nostre ultime. L'estate del primo amore o il traguardo della maratona che non pensavamo di poter tagliare. Ogni nostra storia, piccola o grande, racconta di una linea. Un confine che abbiamo varcato. Una soglia oltre la quale siamo passati. A volte senza accorgercene, altre dopo mesi o anni di lavoro. Linee d'Ombra non si limita più a raccontare i vizi capitali, ma tutte quelle storie che hanno segnato un confine nella nostra vita. Le linee d'ombra che, nel bene o nel male, ci hanno fatto diventare le persone che siamo. Scrivetele in una o due pagine e inviatecele a lineedombra@radio24.it. Noi le prendiamo e ci costruiamo intorno a una puntata. Linee d'ombra di Matteo Caccia, dal lunedì al venerdì alle 15 e il sabato alle 21.30 su Radio 24. La Zanzara. Abbiamo detto che si sta facendo un tentativo estremo per bloccare la diffusione a macchia d'olio del contagio. Le norme prevedono che si possono tenere aperti questi locali se ci sono clienti seduti al tavolo e a una distanza di un metro. Nella serata di ieri, nella nottata di ieri, i baretti della zona della Movida a Napoli e in tanti centri storici dei diversi comuni della regione erano gremiti di ragazze e ragazzi uno sull'altro. Bene, ai gestori di questi bar vorrei dire: ma è mai possibile che voi, per guadagnare 100 euro in più, dovete correre il rischio di perdere 10.000 euro fra due settimane? 10.000 euro fra due settimane. Bene. A Napoli! Ma che c'è da mi sente il cervello? Facetemi capire. Che vado mi sente il cervello? Forse non avete capito che vado a stare a casa. Dovete stare a casa. E che spacci, ma non capito. Ad a stare a casa. E che cazzo, ma non capito. Cos'è che dice? Dobbiamo stare a casa? Resistere, resistere, resistere come su una irrinunciabile linea del piano. Sì, io vedo molto negativo. Come ha fatto a vederlo? Ma è... scusi, le carte, no? Ho messo giù le carte. Un appello, Crux: chiunque abbia della ganja da vendere la spedisca. Lascio pure l'indirizzo, se volete spedisca, faccio un ordine importante, quindi facciamo girare sta economia. Vi prego, fate qualcosa, perché io sto impazzendo. Erba calabrese, produzione propria. Ciao ragazzi, mai duri come adesso, mai duri come adesso. Caro Davide, ci sei? Ci sei, Davide? Ci sono. Ma ho passato questo quarto d'ora in tua assenza leggendo un articolo. No, leggendo un articolo che riguarda uno dei tuoi eroi. Uno dei tuoi eroi. Delle classiche persone che hai esaltato in tutti questi giorni, portandolo a modello, a modello di buona amministrazione, perché si è scontrato con il ministro Lamorgese insultandolo, hai sbeffeggiato il ministro quando il ministro giustamente ha dichiarato che farà causa il sindaco Cateno De Luca, che ha fatto? Il quale oggi, apprendo dalle agenzie di stampa e da un autorevolissimo quotidiano che si chiama Messina Oggi o giù di lì, non so se oggi o domani, si è recato dalla sua mamma a qualche chilometro di distanza dal posto dove sta. Gli altri sono reclusi in casa, e siccome la sua mamma l'ha chiamato, gli dice: Catena, Catena mia, vieni a prendere la frutta e la verdura. È andato a raccogliere frutta e verdura e le uova fresche dalla mamma e se l'è riportate a casa. No, cioè la vergogna assoluta. Tu lo hai difeso. Allora io ti dico, abbi coraggio di condannarlo. Ti difendiamo noi con i nostri avvocati, quello dei diritti civili. Non ti preoccupare. Quando cominci ad attaccare i sovranisti, la Lega, ci siamo noi a difenderti. Ma che c'entra? Abbi coraggio, attacca Catero De Luca per quello che fa. Attaccalo. Posso fare un'ipotesi? Se la mamma di Catero De Luca è molto anziana e ha magari degli acciacchi, chi cazzo gliela porta la frutta e la verdura, David? Mica tutti c'ha la governante come te. No, no, aspetta, può aspetta, anche aspetta, essere legittimo. Sentito, non riesco no, a sentire. Può anche ma essere dire, legittimo sì, il comportamento sì, di Catino. Ma voglio Luca, dire, eh? Cruciani, la questione è ben un'altra. È che in tutti questi giorni l'hai portato, ad esempio, come è vero, un eroe. È vero, uno sì, che è vero. Senza vabbè, mascherina allora andava a bloccare le navi. Che allora, le il sindaco di Messina. Adesso sono andato a raccogliere la notizia. Senza mascherina. Allora, sono andato a raccogliere la notizia. Il sindaco di Messina dice: uova fresche e lattughe appena raccolte. Stamattina mia madre mi ha telefonato verso le 7 e mi ha intimato di andare in campagna da lei a prendere 8 uova fresche e 4 lattughe appena raccolte. Almeno ho avuto modo di salutare a distanza i miei genitori. E noi chi siamo? Stronzi che non andiamo a salutare i nostri genitori? Oltre che a rifornirmi di cibo fresco e genuino. Altro che supermercato. E la l'ha scritto lui. Cioè è talmente idiota che lo ha scritto lui. È talmente stupido. Questa è l'idiozia assoluta. L'ha scritto lui. Lui lo ha scritto. Io posso dirlo da solo, all'alba. Anch'io sono andato a salutare da lontano i miei genitori l'altro sotto giorno. Cos'è sto frastuono sotto? Non riesco a sentire. No, guarda, cos'è che si sente meglio che da te, perché io sono in uno studio radiofonico. Ma no, io ma sto in scherzando, maniera, ti sento, non vedo che faccio finta di non vedo sentirti di in qualche maniera sto condannare uno che sento saluta la madre da lontano, si sì muove sì da sì solo. Sì, però è anche vero, è anche vero, sua, è anche vero che non puoi. Sei andato in un altro paese, non lo puoi fare, sei un sindaco. Io capisco che quello lì non capisce un cazzo. Ma capito che non capisci un cazzo? Insomma, pare che ormai siamo in uno stato di polizia niente, e la gogna continua per anche comportamenti del tutto umani. Chi ha messo a repentaglio Catero De Luca con il suo comportamento? Sì, però se tutti quanti facessero così, andassero dalla madre in campagna proprio, a prendersi le uova, un minimo di libertà è rimasto in questo paese. No, però scusa, un minimo di libertà è rimasto in questo paese. Lui è il sindaco. No, non c'è la libertà. Allora, lui è sindaco. In teoria dici: io vado alla 7 di mattina, mi chiama mia madre e dici: vieni a prendere le uova. Non è un comportamento. Ho capito. Il sindaco può fare quello che vuole. Ma ho capito, un minimo di libertà, ma nel ho capito, suo tempo libero. Ma non lo comunicare, no, non lo comunicare. Va da solo. Non è che lo ha portato l'autista del comune o la macchina del comune. Prima dell'orario di lavoro uno si fa i cazzi suoi da solo in solitudine. Lo vogliamo crocifiggere? Siamo arrivati a questo punto o c'è un briciolo di cazzo di libertà in questo paese che sembra sempre di più una cazzo di caserma? Ma è scemo certificato. Ma è una questo teoria proprio questa qua. È una teoria ma questa. Teoria qua. È allora, scemo, chiedere poverino della libertà è essere scemi. Io sono scemo. Ma è scemo se proprio chiedere un briciolo di libertà in questo voi, paese è essere scemi. Bene, il tribunale della verità, il ministro della verità, il ministro governativo no, David Parenzo mi condanna. Che ti invitiamo, io mi faccio ancora, condannare dal per tribunale della verità. Ti invitiamo ancora. Ti invitiamo Giuseppe ancora dalla provincia di Rimini, per forza. Dai, vedi che poi la butta in corner, vedi che la butta Giuseppe, in corner, no, Pinocchio. Ma non vedi che ma io ci sono. Giuseppe, dimmi. Niente, volevo avete fatto parlare quella scimunita dalla Martani, scusate la volgarità. Vorrei dire una cosa io. Dimmi. Io sono un medico. Noi facciamo parlare tutti innanzitutto, per cui non è questione bene, di bene, però magari con uno che può contrastare quello che dice quella persona. Basto io, non ti preoccupare che sono molto benissimo amico dei cacciatori, sono molto vicino al mondo della caccia, sono a favore della caccia, però noi invitiamo chi ci pare poi, dimmi. Sì, certo, è giusto. Comunque volevo dire, io sono un medico e un cacciatore, io sono ancora in giro adesso per lavoro, per fare visite domiciliari. Sì. Voglio fare una considerazione, molto semplice. Che cosa cacci tu? Che cosa vai a cacciare di solito? Ma io più che altro cinghiale e ungulati. Beh, amico mio, un cacciatore di ungulati, bellissimo, cinghiali. Devo dire che è una grande caccia quelle cinghiali. Ho partecipato anch'io una volta alla caccia cinghiali senza sparare. Bene. Per vedere in Umbria come funzionava e devo dire che è spettacolare la caccia cinghiale. Adesso qualcuno mi ammazzerà, mi crocifiggerà, lo stesso Parenzo. La caccia al cinghiale no, è una cosa stupenda. Non partecipo, meraviglioso. Non sono contro la caccia, ma non partecipo. Che ha un'importanza anche sociale. Vabbè, adesso non esageriamo. Però, comunque, dai, no, senz'altro. Ma tu che cosa provi quando ammazzi un cinghiale, Giuseppe? Dimmi la verità. Ma cosa provo? A volte soddisfazione. Beh, no, ma è giusto che sia così. Cioè, quando vedi un cinghiale abbattuto, cioè tu quanti colpi spari per ammazzare un cinghiale? Così. Pazzesco. Beh, adesso qualcuno in più perché sono vecchio e non ci prendo più tanto come una volta. Due, tre colpi. No, il più delle volte basta e avanza uno, perché il secondo molto spesso non hai la possibilità di darlo. Però io vado coi cani, sono un canaio, per cui quando i miei cani hanno fatto un buon lavoro per me, basta e avanza. Mm. Ecco, volevo dire alla signora Martani, il signora è un appellativo. Dimmi, forse, signora, certo. Che dopo io, 18 anni, sì, va tutti bene, signori. Dai, quando uno si esprime in quei termini di signorile c'è ben poco. Allora? Volevo dire che io sono un medico e sicuramente mi capitasse di dover curare la signora Martani, lo farei, anche se è un animalista. Ho i miei dubbi se lei sarebbe in grado o vorrebbe fare la stessa cosa. Sono convinto che se capitassi tra le sue mani e lei fosse un medico, mi lascerebbe morire. Sicuramente se sapesse che tu vai a caccia di ungulati, che poi sarebbero daini, caprioli e cervi, come mi suggerisce esatto. Qualcuno, no? Cioè tu, però adesso veda, lei non so se ti lascerebbe morire, non credo, non lo so, può darsi, sì. Può darsi. È della stessa categoria. Ma il daino, poi, scusate la l'ignoranza, ma il daino si mangia poi? È buonissimo. Il cervo sì, se non sbaglio. Ma tutto si mangia. Ma tutto si mangia, ragazzi. Daino, caprioli. Io non ho mai ammazzato un animale se non sapevo perfettamente cosa ne avrei fatto. Giusto, e tante no. Volte vado a caccia, ho anche il fucile, non lo uso neanche, guardo fotografo e quant'altro. Ma questo non è periodo di caccia, però, mi sembra, no? No, però i cinghiali stanno facendo strage. Vabbè, amico mio, ciao, che... ciao, ti saluto. Ciao, presto, ciao, grazie. Franco da Taranto, vai Franco. Io volevo solo dire una cosa a Parenzo. Sì, dimmi. Secondo me, dimmi. Parenzo... Che succede? Che succede? Fermo, che succede, Franco? Che succede? Che succede? Simone da Latina. Ma noi ormai siamo vaccinati a queste cose. Simone, dimmi Simone. Dimmi. Pronto? Calma, dimmi. Sì, buonasera. Dimmi. Allora, io vorrei proporre delle misure di punizione per chi, alternative alla multa per chi non rispetta i divieti. No. Che non sono, come uno potrebbe pensare... come prevede il senatore De Luca, il colpo alla nuca. No, questo no. Però propongo... No, ma non è che lui ma non ha mai detto che ci vuole il colpo alla nuca De Luca, eh? Cioè, non ha mai parlato... No, ha detto di... che non ha ammesso questo sistema terapeutico. No, ma ho capito, ma quella era una battuta. Ma cioè, era una battuta. Vabbè, io non voglio arrivare a questo punto. Ma nessuno ci vuole arrivare. Ma nemmeno la polizia filippina risponde agli ordini di Duterte, del signor Duterte, dai. Allora, no, io propongo un'altra cosa, invece. Allora, se tu vai in giro... Le cose sono due, o sei scemo totale, sì. Oppure sei talmente coraggioso che non hai paura di infettarti. Allora, in entrambi questi casi, io ti prenderei e ti manderei forzatamente a fare dei lavori utili. È quello che diceva Briatore l'altro giorno qui da noi, una settimana fa, due settimane fa, diceva inutile dare le multe, è inutile dare le multe alle persone che poi magari fanno ricorso, non le pagano, eccetera, eccetera. Prendere le persone... Prendere le persone, sì, portarle in qualche caserma a fare dei lavori utili per un po' di tempo. Tu vedi che a un certo punto le cose si azzerano completamente. Cioè, le persone che escono a cazzo di cane, che vengono beccate, ce ne sono migliaia ogni giorno in Italia, che vengono beccate fuori, si azzerano all'improvviso. Quando tu sai, ora sarà uno stato di polizia, come dice Gottardo, però secondo me se uno prende una strada... sanitaria, ho capito, ma ragazzi, definirla. O la vogliamo prendere questa strada o non la vogliamo prendere. Se uno la prende... c'è un'altra strada da prendere. C'era un'altra strada da prendere. Bastava avere lo stesso numero di... posti in terapia intensiva che alla Germania per esempio. Ma ormai che perché non ci sono, perché non è colpa, no, perché si sta tutto, facendo passare, ma si sta facendo passare un messaggio negativo. No, posso spiegarmi senza che ti interrompi? Ma la Germania ha chiuso. Fermi un attimo Simone, ragazzi, non litigate tra di voi, voglio far finire Simone un attimo. Simone, dimmi. È una forma di rieducazione, di senso civico, che tanti ragazzi magari... Io che sono più vecchio, per esempio, col servizio militare, un anno, di più, 15 mesi l'ho regalati allo Stato. Adesso questi imbecilli che se vanno a fare lo spritz, che vanno in giro per strada, stessero una settimana a fare lavori socialmente scusate, utili. Ma avete visto le foto di Genova, di alcuni vicoli di Genova, o ancora di Napoli, o non so di dove. Là io farei arrivare l'esercito, chiuderei queste strade e queste persone qua, una per una, le porto a giustificarsi, proprio una per una, in fila, a distanza naturalmente, a giustificarsi. E sicuramente ci sono persone che sono uscite 10 volte al giorno, una volta per far pisciare il cane, una volta per andare a fare la spesa, una volta per fare questo, una volta per fare quest'altro. Queste persone vanno prese, messe in una caserma una decina di ore a fare dei lavori utili o dei lavori utili, non so con chi, eccetera, perché la multa è inutile. Oppure sì, la multa quando tu sei, però la puoi prendere subito la multa, quando puoi prendere direttamente dal conto corrente, non con i ricorsi, le solite cose all'italiana. Fermi. Aiutiamo Il Sole 24 Ore, insieme a Radio 24 e Radio Cor, sostiene le strutture ospedaliere sul territorio impegnate nell'affrontare l'emergenza coronavirus. L'ospedale di Cremona ha bisogno di te e per noi è la notizia più importante di oggi. L'azienda sociosanitaria territoriale di Cremona, con i suoi medici e tutto il suo personale, sta lavorando senza sosta per fronteggiare il Covid-19. Aiuta anche tu con una donazione straordinaria per affrontare tempestivamente questa emergenza. Hashtag insieme ce la faremo. Hashtag sole per ospedale Cremona. Per tutte le info s24ore.it/aiutiamo. La zanzara. In Cina un cittadino cinese che era uscito dalla quarantena, dalla zona che era in quarantena, si era buttato con la macchina, aveva travolto anche le forze dell'ordine, facevano il blocco stradale e quant'altro, 23 anni, è stato fucilato. Ora nelle democrazie occidentali non esistono questi metodi terapeutici. No, vabbè ragazzi, il prete di ieri mi ha fatto godere, non mi ricordo il nome, sulle cose che ha detto, su Radio Maria, su Salvini, mi ha detto una cosa e mi ha fatto godere ancora di più, perché io sono agnostico, sono alla ricerca e le cose le leggo, io me li sono letti i Vangeli, e qui il passaggio che lui ha detto ieri è fondamentale, ha detto bisogna pregare nelle mura domestiche, e questo apre un'altra domanda, quindi, che è fatta da un prete geniale, se bisogna pregare nelle mura domestiche, le chiese, a che cazzo servono? A che cazzo servono le chiese, il Vaticano? Se anche Dio dice che bisogna pregare nelle mura domestiche. Godo e prego a questo punto. A questo punto prego. Godo come un riccio. Ok, mi fanno notare, magari mi è sfuggita. E sono attento a mille cose qui, David, cioè non ne posso più. Allora, mi fanno notare una cosa, che il cacciatore di prima ha detto una frase, cioè dice non serve il secondo colpo perché i miei cani hanno fatto un buon lavoro e va già bene così. Cioè significa, certo, che sostanzialmente sono i cani che vanno a finire l'ungulato, che lo scannano. Sì. Ed è molto più buono, ed è molto più buono perché perde il sangue e non muore subito. Quindi il sangue esce dalle carni, le carni sono meno scure. Tu stai dicendo che è più gustoso. È più buono il cinghiale scannato dai cani. Non ho capito. Meno carne ha, è la carica batterica della carne, e anche molto più buona. Del sangue. È chiaro. Sì, certo, meno sangue alla carne e più buona la carne. Capito, però il sangue si può far perdere anche successivamente, non c'è bisogno di essere sgranato. No, perché se si ferma il cuore, se si ferma il cuore non esce il sangue. Vabbè, la teoria di Gottardo è che i cani... No, non è la teoria. È il motivo per cui la carne halal, per esempio, è più buona dell'altra carne perché viene battente, esce tutto il cuore, cioè, tutto il sangue. È meglio farlo scannare dai cani, allora, l'ungulato. Cioè, Per l'esito finale, sicuramente. Vabbè. Il metodo halal non lo fa con i cani. Puoi scannarlo, un cinghiale fai fatica a scannarlo. Il metodo, ma infatti, a parte. Vabbè. Allora, il sindaco Tutolo, il mitologico sindaco Tutolo, quello di Lucera, provincia di Foggia, è incazzato come una biscia e addirittura ha iniziato lo sciopero della fame. Buongiorno a tutti. Dimmi Tutolo. La prima domanda, Maurizio, perché le profumerie sono aperte? Sono aperte perché il decreto dice che possono stare aperte, perché evidentemente qualcuno là immagina che ci puzza, che ne so, la pelle, l'alito, non lo so. Possono stare aperte, tra un po' si apre tutto perché insomma ci sarà il Tana libera tutti. Se io oggi ho deciso di cominciare questo sciopero della fame e di stare qua in questo ufficio, vedete? Volete vedere il letto? Ecco, questo è il giaciglio. Adesso mi hanno portato pure, più tardi ve lo faccio vedere, le lenzuoline con i fiorellini, non lo so che mi ha mandato, moglie, ma sicuramente saranno delle lenzuola che serviranno a coprire quel letto. Una copertina, ma non perché ho voglia di fare il pagliaccio, secondo voi? Non ho voglia di fare il pagliaccio. Ho voglia di farmi ascoltare. credetemi, io oggi volevo andare a casa, volevo stare con mia moglie, volevo stare con mio figlio, volevo sedermi a tavola, volevo vedere un po' la televisione, volevo fare quello che faccio quotidianamente, togliermi le scarpe, non lo so, scambiare due chiacchiere, sfottere un po' mio figlio e venire sfottuto da mio figlio, non lo posso fare, ma non perché voglio fare il pagliaccio, il buffone o chissà che, no. Perché? Perché io voglio delle risposte. Ah. Perché io credo che voi volete delle risposte e che credo che quelle risposte noi le meritiamo. Insomma, avete capito che vuole Tutor? Io ancora non l'ho capito bene. Che cos'è che protesta? Prima protestava... Delle risposte. No, ma aspetta, però in realtà c'è un motivo. C'è un motivo per cui ha iniziato lo sciopero della fame e dorme al comune. Una quarantina di persone di Lucera sono in isolamento fiduciario. È un elenco sicuramente non completo e non esaustivo, quindi sicuramente c'è qualcuno in più. A quella persona là la facciamo stare in casa, ai suoi congiunti, ai suoi familiari invece no. Capiranno, così come lo hanno capito i primi tre ai quali io ho fatto l'ordinanza e ho messo in quarantena tutta la famiglia. Poi benissimo, di quei tre, i tre nuclei familiari erano tutti negativi. Ebbene, ma questa si chiama, miei cari signori, prevenzione. Questa è la prevenzione, perché sennò alla fine di che cazzo parliamo quando parliamo di prevenzione? Cioè, qual è la prevenzione se non questa? Questa è la prevenzione, a mio avviso. Davide, provincia di Milano, vai, Davide. Italiani, dimmi. Ascolta, io volevo fare un appello agli italiani di ritirare tutti i soldi dal conto. Sì, tutti i soldi dal conto, così crolliamo domani mattina. Cioè, domani mattina crolla tutto. Ti spiego anche perché stanno mandando tutti gli interessi subito, così competenze, interesse. Cioè, mia mamma che c'ha la pensione, dal gennaio adesso. 30 euro di interesse e competenze. Sì. Sono entrato, ma fatto entrare. Andiamo in banca, Villi da Trento, questo ubriaco totale. Villi da Trento, completamente fatto ubriaco. Purtroppo la situazione in Italia è questa. Ecco l'altro. In Italia, che ha detto Villi? Sì, che ha detto Villi? Molto bello, com'è, in modo affettuoso, Davide. Cioè, la realtà è che in questo periodo, già normalmente è così per fortuna. Aspetta, già è così per fortuna. In questo periodo, però, la gente è in casa particolarmente scoppiata, particolarmente depressa, particolarmente frustrata. Particolarmente, come dire, sfiduciata, e giustamente fa uso di sostanze stupefacenti che riesce comunque a procurarsi, alcol, droghe, e poi sì, è vero, chiama in questa disgrazia col Ministero della Salute, con Speranza. Allora dimmi qual è il problema. Allora, sempre per collegarmi al discorso, io allora vi do il metodo per farvi non a voi, intendo agli ascoltatori, ma anche voi se volete, per farvi un viaggio, diciamo un trip delle allucinazioni, in modo assolutamente normale, naturale, senza assumere sostanze. No? Ma che vuol dire? Allora si chiama effetto Ganzfeld. Effetto? Praticamente Ganzfeld. Cioè? Allora, praticamente, di cosa consiste? Intanto vi dovete dotare di un paio di cuffie, no? Ben isolanti. Un paio di occhialini tipo da piscina o quelli questo. Da... Allora? O quelli da lavoro, tipo, vabbè, ci mettete della carta velina, no? Perché una candela? Dovete... No, vabbè, lasciamo stare. E poi andate su YouTube, scrivete Ganzfeld Sound, ok? Sì. E quindi è questo suono monotono, ok? Monotono, come volete. E lo fate partire la riproduzione, vi mettete questi occhiali, no? Davanti al video. E che succede quindi, poi? Allora, non dovete chiudere gli occhi, no? Perché gli occhi devono rimanere aperti. Dunque? Quindi per quello la carta velina, perché intravedete un attimo la trama. Certo. E poi il vostro cervello farà tutto da solo. Praticamente, dopo i primi 15 minuti che starete... E ovviamente dovete... Uno deve stare 15 minuti sul letto con le cuffie, guardando questo sito, questo... No, è il sito, tu ti fai riprodurre questo audio, no? Quindi ti metti tranquillo lì sul letto. Capito, no? senti quello... le cuffie. Senti questo suono e no? Sei completamente Aspetta, perché succede questa cosa? Perché va a sbarellare. Se io lo faccio a casa mia, cambiano le chiavi di casa. No. Aspetta, va. Che cosa va a sbarellare? Diciamo che il nostro cervello ha bisogno di alcuni pattern, no? Quindi di alcuni stimoli, no? Quindi se lui non riesce a trovare dei pattern sia da si spegne, per quanto riguarda come il tuo. Le, le orecchie, no? Quindi per quanto riguarda l'udito. Sì, però Billy, andiamo al sodo, amico mio, dai, che cosa succede? Ok, e dopo, appunto, tu dopo questo quarto d'ora cominci a vedere, diciamo, inizialmente delle forme semplici. Dopo circa 20 minuti, 25, cominci proprio ad avere delle allucinazioni, come se stessi sognando ad occhi aperti, in modo assolutamente naturale. E ve lo potete fare, state lì per un'oretta, dov'ete, insomma, ma dipende. Perché poi devo stare un'ora già, no? Sono tanto depresso, ma già sono tanto depresso, perché mi devo mettere lì a farmi un viaggio? Ma ti tirerà su sicuramente, ti farai magari anche un qualche viaggio introspettivo, il tuo cervello. Ma non voglio meditare, come ha detto Conte, io non voglio meditare, non voglio fare nessun viaggio. Non esisti solo te. Ma sì, quello giusto, quello giusto. Allora ti dico, la gente che adesso tutti fanno i tutorial, no? Come fare la palestra in casa, come farsi le sighe artigianali in casa, e io vi dico come sballarvi in casa in modo naturale senza uscire fuori a beccarvi multe. Allora, dov'è che devi andare esattamente, secondo te, secondo il genio che ci ha chiamato? Dov'è che devi andare? Allora, vai su YouTube, scrivi Gunfield Sound, per questo cazzo di rumore che tutti... Come si chiama? Gunfield. Guarda, okay, che no, non funziona, vengo lì, ti prendo a roncolate. Ma no, ma Alessandro, ma da Padova, se non lo provo, se non funziona, ti prendo a roncolate. Alessandro, no, da Padova, fermo là, Alessandro da Padova. Mi sentite? Sì, sì, dimmi. Ciao, allora, io sono uno dei pochi che è contrario alla quarantena totale a oltranza. Non ho capito, chi sei? Sono Alessandro da Padova e sono uno dei pochi contrario alla quarantena. Ma veramente la maggior parte sono contro la quarantena a oltranza. Tutti, anch'io, cioè, però la faccio, che devi fare? Cioè, chi è? Ma io non parlo dei miei amici, ho litigato con la maggior parte dei miei amici per questa cosa, quindi per senso? La minoranza. In che senso hai litigato? Perché tu vorresti uscire, potresti fare il cazzo che vuoi? Allora, no, io non voglio fare... Quanti anni hai? Non ho capito, quanti anni hai? Ho 31 anni, sono uno dell'amico del fratello di parenza, l'avevo già chiamato. Vabbè, allora? Volevo dire, che no, allora io parlando con i miei amici ho notato di essere l'unico, mi sembra. Comunque, il punto è che non si può stare in casa 2 mesi e mezzo senza fare una lira, senza vedere la luce del sole. Sì, io penso che si potrebbe prendere delle misure, una via di mezzo tra la quarantena totale, cioè... Però, amico mio, non parliamo di quello che poi che si potrebbe fare, tanto non siamo noi a deciderlo, capito? Ma tu sei stressato? Sei stressato? Io soffro di ansia e di depressione quando sono chiuso in casa. E quindi puoi uscire? Normale. Se soffri di depressione, puoi uscire. Nell'asfalto posso uscire. Ma no, puoi uscire a farti una passeggiata. Se chi soffre di trombosi, depressione e ha bisogno del sole, può uscire, veramente, certificato. Sì, ma io sono in centro Padova. Ho capito, il centro Padova è meraviglioso, stupendo. Lì puoi girare, ma non la piazza. In mezzo ai condomini, capito? Quindi non lo vedo neanche praticamente. Ma tu secondo me sei stressato anche di tuo normalmente. Cioè, non è che vabbè, poveretto. Probabile, però io durante la vita normale sono una persona tranquilla e non sono depresso. Stai depresso, puoi uscire. Stai impazzendo comunque. Stai impazzendo. Esatto, e penso che si potrebbero trovare delle alternative. Ti masturbi? Ma cosa fai tutto il giorno? Beh, adesso ti masturbi o no? Ho la fidanzata e poverina in casa con me. Beh, amico mio, ma che cazzo vuoi dalla vita? C'è la fidanzata in casa con te, rompi i coglioni, ma vaffanculo, va. Ciao. Ho bisogno di sorca. Allora ragazzi, è il momento di chiamare uno dei protagonisti della giornata, quel medico. Potete andare a vedere tutti il video, molti di voi l'hanno visto perché non hanno un cazzo da fare, non avete un cazzo da fare a casa purtroppo, di quel medico che in provincia di Lecce, se non sbaglio, prende praticamente ammazzate con uno schiaffo, con un calcio, un suo paziente, roba incredibile. Costui si chiama Vincenzo Refolo, chiamiamo. Pronto? Vincenzo? Sì, sono io. Ciao Vincenzo, chiamo da Radio 24, Cruciani, ciao. Che è successo? No, spiegami una cosa. Ho sentito tutto quello che è successo. Ho visto tutto quello che è successo. Quali sono le tue spiegazioni rispetto alla scena che abbiamo visto? Noi abbiamo visto solo quella scena lì, no? Una scena drammatica. Quali sono le tue spiegazioni? Me le puoi dare? Ecco, io sono esausto perché non ho dormito. Ho dovuto affrontare la situazione di ieri. Lo so perfettamente. Dammi una tua spiegazione di quello che è successo, quello che non abbiamo visto. Poi parliamo di quello che abbiamo visto. Quello che non avete visto è successo nell'ambulatorio, che ha tirato all'aria due sedie. Sì. Togliendo l'intonaco, ma non sì. È questo togliendo l'intonaco. Poi io l'ho accompagnato vicino alla porta, ma io sto saltando tanti passi, sto saltando tanti passi, perché questo da 7 giorni è paziente mio, mi spiego, dal 30 marzo. E che è successo? E che è successo in questo periodo? Il 30 marzo è successo che è venuto, che era caduto 3-4 mesi fa, e mi parlava, è stato 45 minuti in ambulatorio, sì. Non può manco stare in ambulatorio, no? Per il fatto del coso. È stato 45 minuti, l'ho fatto accomodare perché tiene questi dolori. Lui non ha dunque, fatto per niente. Dunque, per una settimana che cosa ha fatto? Che cosa ti ha fatto per una settimana? Che cosa io? Niente, io è venuto il 30, gli ho scritto una visita ortopedica. Su Cristiano non si manteneva in piedi, no, con la stampella, poverino. Scusami un attimo, ma tu hai detto che questo qua si farà una perizia psichiatrica? È una persona, voglio dire. Io penso, da clinico, penso che abbia dei problemi. Se io dico questo, è un'arma a doppio taglio. È una persona in ogni cosa che non ti fa parlare. Ma è stato violento con te? Tu dici che dentro l'ambulatorio... Sì, certo. E che è successo? Io sono impazzito. Io non ho mai alzato la mano, manco... Ha sbattuto queste due sedie. A che l'ho accompagnato alla porta. Ho detto, senti, per favore, esci, guarda... Trovate un altro medico. Perché non ha chiamato la polizia, scusi? Non ho capito. L'ha chiamata un paziente che stava aspettando dietro di questo, no? E non rispondeva. Alla fine sono venuti i carabinieri, quando ormai era successo il fattaccio. Però scusami, quello che abbiamo visto noi non sappiamo quello che è successo all'interno. All'esterno noi vediamo tu che gli dai uno schiaffone, poi quello cade per terra, tu gli dai dei piccoli calci, cioè quello che vediamo noi è quello, no? Sì, è quello. E come posso negarlo? Me ne rammarico, ma tutto sto Emiliano che si riempie la bocca, se me dici che qua ne hanno fatte di cotte e di crude, io le so, le conosco, oppure denuncio. Emiliano dice che tu devi essere radiato. Ma stiamo scherzando? Ho capito, perché un medico di base che mette le mani addosso a un paziente, comunque è grave la cosa, o no? D'accordo. Ha dato tre stampellate, che la stampella che tiene è di alluminio, quella lega leggera, che non mi ha fatto male. Però scusami, no. Vincenzo, d'accordo, mettiamo anche che sia vero, no? Io ti credo, mettiamo che sia vero che quello ti ha dato delle stampellate. Però quello che vediamo noi dopo, tu sei un medico di base, dovresti essere una persona responsabile. Gli hai dato uno schiaffone, quello è caduto per terra. Pare che ci abbia un... Calma, era caduto già da prima, perché quando lui ha tolto la stampella, io adesso non ricordo bene se è caduto forse due volte, ma la prima volta è caduto da solo. Ma io adesso questo, chi è caduto da solo, chi non è caduto da solo, fatto sta che tu gli hai dato uno schiaffone, io lo vedo piombare per terra, poi addirittura col piede tu gli vai addosso. Questo non è un comportamento da medico di base, amico mio. Sì, d'accordo, sono d'accordo con te. Ma non è che posso riavviare il nastro, cioè che chi si riempie la bocca dicendo gli altri medici lavorano, io lavoro 14 ore al giorno pure io. Sì, ma che cosa ti è scattato in quel momento? Perché l'hai picchiato? Ah, non lo so. Pugni, cioè quello no, che... Uno schiaffone. Io ho visto la scena. Siete prevenuti. No, ma io ti ho fatto raccontare. Se voi non mi volete credere. Ti ho detto che credo. Io non gli ho dato nessun pugno. No, uno schiaffo. Sotto gli occhi. No, lasciami parlare. A due borse sotto gli occhi, perché penso che prenda degli anticoagulanti, perché io non l'ho mai visitato. Vabbè, quello. Pieno di sangue, quando è caduto sul selciato si è lacerata la pellicina di una persona anziana di 87 anni. Mi spiego? Sì, ho capito, va bene. Però allora, si è creata quell'ecchimosi, nessuno gli ha dato un pugno, Io ho visto uno schiaffo, lascia perdere il pugno, uno schiaffo l'ho visto. Lo schiaffo ha fatto volare la cartelletta, l'ho dato alla cartelletta. Amico mio, quello era per terra, tu stavi là coi piedi o no? Dopo, o no? Non stiamo parlando della cartelletta, dei piedi, gli ho dato tre pedate sulla gamba, posso negarlo? Ma io ho capito benissimo. Allora, secondo te, io adesso stiamo calmi, secondo te è un comportamento che un medico di base può tenere? Assolutamente, ma nessun medico, né ospedaliero, né di continuità assistenziale, né da 118. Ma che cosa ti è preso allora? Che cos'è che è scattato in quel momento? Io posso anche credere che quello ti abbia dato le stampellate. Ma se uno non vuole uscire dall'ambulatorio, se uno non ti vuole fare parlare, tu e chiami la polizia. L'ho chiamata, hanno non rispondeva, non veniva. Sì, però amico mio, allora Emiliano dice che tu vai io capisco l'esasperazione di questo signore. Bisogna capirla, l'esasperazione va capita. Bisogna capirla, perché questo qui è un medico di famiglia, di frontiera, perché sta al fronte, non di fronte, sta al fronte. Io lavoro 14 giorni, e quindi, 14 ore. Dopodiché, però, di congedo, di riposo. Però ci vuole anche, bisogna capire il suo stato d'animo. No, ma quello lo capisco, quello lo capisco. Però questa è una vera e propria, uno potrebbe dire, vedendo quelle immagini, è una vera e propria aggressione. Sicuramente, sicuramente, vedendo le ultime immagini, sicuramente, ma più che essere rammaricato, più che chiedere scusa, mi sembra che ci sia una sproporzione tra il fatto. Beh, sproporzione, no? Sproporzione, sai. Il fatto è quello che chiede Emiliano, ma non mettiamo i medici in queste condizioni, dico io. Io sono senza mascherina, io stavo in una mascherina pagata da me, ma lo capite queste cose? E questo... sapete queste cose? Parlate di questo con il signor Emiliano. Vincenzo, scusami, io voglio capire una cosa. Tu ti vergogni di quello che hai fatto o no? Chiedo scusa. Molto, ti vergogni. Molto. D'altra parte ti devi solo. Ma con che animo uno tornerà da lei? Questo è il punto. Cioè, vedendo quell'immagine di un medico chi è che viene da te? Perché a voi non è mai successo di perdere le staffe? No, amico mio, se io metto le mani addosso a qualcuno qua dentro al mio posto di lavoro, a una persona che lavora con me, o una persona così, mi cacciano un minuto dopo. Cioè, un minuto dopo mi cacciano, proprio un minuto dopo. Non c'è manco. Ma sai, io alle volte che voglia che avrei di avere la sua reazione. Non ho mai avuto reazioni di questo tipo, né con giovani né con bambini. Ho capito, no, sembrava però. Anche a me verrebbe voglia di spaccare la faccia a qualcuno, ma in continuazione. No, a me no. No, ma voglio dire, sarà capitato anche a me, no? Di avere voglia, come dite voi, no? Però non mi è mai successo. Ma cioè, tu vuoi dire alla fine che questo qua se l'è meritata, questo qua? Lo schiaffone, questo è caduto per terra. Adesso, ragazzi, adesso va bene tutto, va bene tutte le spiegazioni, ma questo qua è caduto per terra. Caduto quando non lo vedete filmato. Ma Vincenzo, 30 secondi si capisce tutto. Quello esce con te, tu voi siete incazzati. Allora, se avete capito tutto. Io non ho capito, guarda. Io quello che è successo prima non lo so, me l'hai detto. È meglio che ti dimetti tu prima. Quanti anni hai? 58, me ne vado in pensione mo. Amico mio, che bisogna fare? A 58 anni uno che ha messo le mani addosso a un paziente è stato ripreso E quando mettono in mano ai medici e gli spaccano la testa ai medici e fate due trafiletti, ma scusami, ma non vedete che siete ridicoli? Meno male che mi hai detto, ma se no è la giungla, se no è la giungla, se tutti menano tutti è la giungla, è la legge della foresta. Ma infatti, ma io è la prima volta che mi succede. Che prove ci sono che tu che ti ha dato le stampellate, ti ha ferito in qualche modo, che fa, che ci sono prove di questa roba? No, assolutamente. E ho capito, mia amico, nemmeno me le sarei create, cioè non me le sono manco create. Ho capito. Però quello che risulta all'opinione pubblica, amico mio, quello che risulta all'opinione pubblica di tutta Italia. Ma non c'è bisogno, senti, guarda, ma mi hai rotto le scatole, scusa, e poi passo per una persona appunto nervosa. Mi stai facendo nervosire te, perché io sono stressato. Ho capito che sei stressato, no, ma lo capisco. In prospettiva la vedo nera, ma perché ci sono politici che si riempiono la bocca. Chiedi scusa, chiedi umilmente scusa. Ma io non so come chiedere scusa umilmente. Ebbene, chiedilo ai nostri microfoni. Dici, chiedo scusa a tutta Italia per quello che avete visto in questo periodo drammatico del coronavirus. È normale che chiedo umilmente scusa, glielo stavo dicendo prima. Certo, quando lo accompagnavo già ieri in macchina, sì, che l'hanno si è seduto dietro, io sì, ho fatto, no, sul vetro. Sì. Toc, toc, ho toc, toc. Toc, e gli ho fatto, vabbè, ciao col segno della mano, cioè nel senso ci vediamo, come se non fosse successo niente, che non può essere vero, perché il gestaccio rimane. È normale che io sono rammaricato. Allora chiedo umilmente scusa a tutta Italia, mi sembra la soluzione migliore, amico mio, o no? Certo, ci mancherebbe. È un gesto inqualificabile, nonostante quello che è successo prima, che non si è visto, è un gesto che uno non dovrebbe fare mai. Vincenzo, ciao, ti saluto, ciao, ti abbraccio. Ciao, arrivederci. Ciao. La Zanzara. Devo vedere un po', devo cercare di avvisare qualcuno, dire per cortesia chiudete le assi merdose, oppure togliere un po' di merda dall'Italia, chiudono sta trasmissione del cazzo, tu e quell'altro frocio lì, quel nano del cazzo. Questi di nuovo che fanno la musica rap, trap, trupp, trap, una razza aperta, che cazzo ti fanno un mare di cocci, prima la musica era melodia, musica rap, trap, trupp, trap, rap, 2020, rap, anno bisesto, anno smesso. Giro in ma, gira a caso, gira cose, Ruben Sosa, bruciamo fiori, non rose cose, mamma stai tranquilla, mamma sosa, perda fre, nuova me, sogni me. E che cos'è? Nell'età, fazzole, mai pia, fine a sé. Blow Joe, nuova scuola, ma è una Joe. State ascoltando musica giovane. La Zanzara. Mi scappè, basta il shine. Vai un essay, taglia le. Si rompia, basta il fragile, ma 5 col fra che già giroppia. Tipo quel tipo di tipa fra. Tipo col tipo di tipa fra. Ti pario contra fra. Tipo quel tipo che è il tipo di tipo. Da tipa del tipo fra. Prima la musica era melodia, passione. Took her out, it was a Friday night. I walk alone to get the feeling right. We started making out, and she took off my pants. But then I turned on the TV, and that's about the time she walked away from me. Nobody likes you when you're 23. And I saw more of these my TV shows. What the hell is ADD? My friends say I should act my age. What's my age again? Giuseppe, io soltanto una cosa voglio dire. Dimmi, dimmi. Leggo ogni giorno notizie dove ci sono questi malviventi bastardi che vanno in casa degli anziani con la scusa di dare le mascherine, invece vero, derubano tutto. Ma che schifo, servirebbe quel porco del filippino in questi momenti. Maledetti bastardi, la feccia che esce dalle fogne nei tempi più bui. I will not hesitate. My orders are... sa police pati military pati mga barangay, shoot them dead. I will not hesitate to order.